Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà. Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro è un'abitudine, lo spettatore del tuo film non sei mai tu. Non mi dici neanche una parola, guardo la tua ombra farsi piccola fino a scomparire. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che sei lì da solo, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola, lo sappiamo entrambi è un'altra storia. Le imperfezioni delle tue mani ancora mi portano via, e ci bastavano due bollicine per fottere la nostalgia. Siamo ragazzi perduti che si son riconosciuti al primo sguardo. Le ore, i secondi e i minuti passano muti come quando stai aspettando. E adesso so dove sei, se solo sapessi dove sono io ti chiederei come stai, se solo sapessi come dirti addio. E tu lanci un desiderio a una fontana e lo guardi arrugginire. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che sei lì da sola, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola, lo sappiamo entrambi è un'altra storia. E accorgersi in un attimo che notte siamo fuori, andiamo senza meta sotto agli occhi dei lampioni. Tanto ci portavi al vento, tu resta immobile, la strada sembra un deserto. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che siamo qui da soli, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola, lo sappiamo entrambi è un'altra storia. Quando ci si ammazza il tempo vola, lo sappiamo entrambi è un'altra storia.